Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi cominciamo a parlare di strenne, di libri belli, particolarmente curati, alcuni anche particolarmente pesanti, ma sempre utili, dei libri che è anche un piacere leggere. Cominciamo con dei libri di viaggio e soprattutto di viaggio in Italia. Vi segnalo innanzitutto quello di Attilio Brilli, che è tra i maggiori studiosi di letteratura da viaggio, e si intitola Il grande racconto del viaggio in Italia, itinerario di ieri per viaggiatori di oggi, pubblicato dal Mulino, 452 pagine, 48 euro. Il libro è particolarmente bello, curato, molto ricco di illustrazioni, ma anche di contenuti. Il viaggio in Italia è sempre stato un mito per l'Europa colta e benestante, ma che cosa rappresentava questa meta così sospirata e che rapporto avevano i viaggiatori con il paese che visitavano e questo con gli stranieri? Come ci si organizzava per un viaggio che era particolarmente lungo e complicato? E oggi che cosa rimane di quegli itinerari obbligati ma mitici a Roma, Napoli, a Firenze, a Venezia, in Sicilia? Ecco, queste sono alcune delle domande alle quali risponde questo libro, che è anche un invito a guardare l'Italia, la nostra Italia, con gli occhi di ieri e degli stranieri. Il viaggio era una cosa seria, implicava una lunga e minuziosa preparazione, come ammonisce per esempio un grande filosofo inglese, Francis Bacon, in una citazione iniziale che risale al 1597, tratta da un suo saggio sul viaggio, che quindi si conferma essere una tradizione antica. L'approccio con l'Italia, spiega l'autore, era spesso contraddittorio, più pragmatico per l'Europa settentrionale, più edonistica per l'aristocratico anglosassone e francese. E naturalmente il secolo d'oro di questa tradizione è il Settecento. A Roma si calcola che verso la fine del secolo pare che ogni inverno svernassero non meno di 40.000 stranieri, ai quali naturalmente bisognava poi associare e calcolare tutti gli accompagnatori che formavano delle autentiche piccole corti di inservienti. Ma sentiamo dall'autore che cosa venivano a cercare questi signori in Italia. Buonasera ad Attilio Brilli. Buonasera, buonasera. Attilio Brilli, allora, gli stranieri di cui racconta nel suo libro, che cosa venivano a cercare in Italia? Un modello o piuttosto un'idea astratta? Tutte e due le cose, nel senso, se si pensa ai viaggiatori del 600 e primo 700, l'Italia era un modello anche di virtù civili, cosa straordinaria insomma, no? Per certi aspetti, ecco. E poi dopo la metà del Settecento in realtà sempre più diventa il paese delle antichità, il paese dell'arte, si restringe insomma la gamma, diciamo, onnicomprensiva che era del viaggiatore che aveva in tasca Francis Bacon, insomma, no? Il senso del viaggio come formazione globale, come conoscenza di tutto, un'Italia anche economica, imprenditoriale e così via. No, dopo diventa l'Italia di Winckelmann, di Goethe, l'Italia della classicità e quindi l'Italia dell'arte. E quindi c'erano tre dimensioni che perseguivano, insomma, quella della natura, quella artistica e quella del pittoresco, la dimensione del pittoresco. Come si è evoluto il rapporto tra questi tre ambiti, tra queste tre dimensioni del viaggio degli stranieri? Ma diciamo che potrei fare come esempio quegli americani, poniamo i primi viaggiatori americani, e siamo alla fine del Settecento, e quindi come dire, siamo in epoca abbastanza in là ancora. Ecco, quando vengono in Italia ammirano quest'Italia un po' cialtronesca, diciamo la verità, quest'Italia molto sporca, ecco, ma perché è un'Italia pittoresca per loro, è l'Italia cioè che porta in sé l'usura del tempo, si porta nelle proprie facciate, nelle proprie colonne, nei capitelli, una storia millenaria, quella storia che il resto dell'Europa e soprattutto l'America non ha. Ecco, questa storia ha depositato una patina, diciamo, su tutto, e questa patina può prendere tante sfaccettature, avere molte connotazioni, essere, ripeto, il senso di sporco, di degrado, se vogliamo, ecco, non quello di oggi ovviamente, e però poi questo era l'usura del tempo, era quel senso della trascorrere delle cose inesorabile, insomma. Ecco, infatti alcuni di questi viaggiatori manifestavano una certa insofferenza, erano quasi infastiditi degli abitanti dell'Italia, amavano l'Italia ma non gli italiani. Ah, indubbiamente, questo è in qualche modo il tallone d'Achille del discorso che facciamo sul viaggio in Italia, sul Grand Tour nel senso più ampio del termine, perché si vorrebbe un'Italia come, come dire, ultima oasi, come un paradiso perduto in definitiva, no? Ma un paradiso perduto non prevede la presenza degli abitanti, che sono sempre degli elementi importuni in una certa misura, anche addirittura in un certo senso interrompono quel senso magico di essere in un luogo particolare, in un luogo eletto. Allora si vorrebbe i templi di Pestum o le rovine di Ercolano di Pompei, ma senza gli abitanti del luogo, perché sono cenciosi, perché sono importuni, sono accattoni, ecco, c'è questo senso anche di forti e direi spietati stereotipi che connotano gli italiani da parte dei viaggiatori stranieri. Talvolta erano anche, come dire, obiettive queste accuse, molto spesso erano gratuite e comunque fortemente spietate. Due capitoli del suo libro sono dedicati agli strumenti dal viaggiare, il corredo e i mezzi. Ecco, come si è evoluto questo rapporto del viaggiatore? Vedo per esempio che c'è in una bellissima fotografia una biblioteca portatile, non si facevano mancare nulla questi signori. No, assolutamente. Beh, anche qui bisogna distinguere fra viaggiatore e viaggiatore. Se si prende Goethe, gli si apre, o Stendhal, gli si apre la borsa la valigia, ci sono pochissime, poche cose, due camicie, tre paia di calze, le loro opere e nient'altro in realtà. Ma se si prende Lady Blessington o il Conte d'Orsay, la carrozza, c'era tutto. Io ho riportato come esempio, e mi sembra un prototipo eccezionale, la carrozza di Napoleone, con la quale scorrazzava in tutta Europa da una battaglia all'altra, insomma, e questa carrozza venne esposta nel 1816 a Londra, a Piccadilly Circus, come trofeo di guerra naturalmente, come conquista, ecco, noi abbiamo conquistato, questo è il segno della potenza britannica, e questa carrozza diventa una specie di prototipo della carrozza ideale per il viaggio in Italia, perché questa carrozza era rifornita di tutto, addirittura necessaire de voyage, biblioteche portatili, lettini che si stendeva dentro la carrozza, addirittura c'era uno stipo e dentro questo stipo c'era un cassettino con dentro la corona imperiale. Non mancava niente, insomma, naturalmente c'era anche il cronometro sul quale regolare tutti gli altri generali della Grande Armée. Mancava solo la radio. Ecco, mancava mancava la radio, ma probabilmente qualche sistema di comunicazione doveva esserci. Un capitolo è dedicato agli itinerari, ai grandi itinerari del viaggio in Italia. Ecco, questi itinerari erano pressoché obbligati, ma c'erano delle varianti che qualcuno ha fatto scoprendo anche degli angoli meno noti d'Italia? Sì, ci sono sempre stati, però erano veramente delle eccezioni. Per esempio, chi intraprende i cammini di Puglia, una regione dimenticata, o chi, per esempio, Edward Lear, un grande acquerellista e umorista inglese, che è uno dei primi che esplora a piedi la Calabria. Ecco, è veramente un viaggiatore eccezionale, perché nelle Calabrie, anzi allora al plurale, non ci andava nessuno di fatto. Ecco, però eccezioni così, oppure quel viaggiatore inglese che va a studiare la tarantola, per dire, ma sono mosche bianche, come si dice. Il resto era un viaggio fortemente stereotipato, anche perché prevedeva una organizzazione ferrea di cambi di cavallo, di locande, e fuori degli itinerari era anche un azzardo veramente per la sopravvivenza fisica, no? E anche per i pericoli, il brigantaggio, via di seguito. Nell'Ottocento, quando scattano nuove mode per il viaggio e nuovi interessi, per esempio George Dennis e tutta una serie di anche signore infatuate degli Etruschi, siamo 1830, tutto sommato, ecco, cominciano a esplorare una Toscana addirittura impaludata, la Maremma, perché era il luogo degli Etruschi. Negli stessi anni un grande archeologo come Layard fa le città dell'Appennino di qua e di là, Arezzo, Sansepolcro, Gubbio, Cagli Urbino, chi ci andava? Nel caso tu non ci andava nessuno in questi luoghi, tolto Arezzo, ecco, e però lui ci va perché lì ci sono le pitture dei tre Raffaelliti, Piero della Francesca, Giovanni Santi, il padre di Raffaello, ecco. Era anche lui uno che andava a cercare qualche cosa di nuovo veramente, o quel grande scozzese che è Denniston, che scrive Memoirs of the Dukes of Urbino, Memorie dei Duchi di Urbino, tre monumentali volumi sul Ducato Urbinate, che era stato, che è uno dei primi monumenti della storiografia britannica. Lei ha fatto un cenno adesso alle signore, e le signore compaiono tardi, all'inizio i viaggi erano puramente maschili. Sì, certo, compaiono tardi, diciamo, nel Settecento, è l'illuminismo che promuove la figura femminile e la donna si appropria, diciamo così, giustamente, della scrittura di viaggio perché le consentiva una libertà che non aveva e anche una possibilità di pubblicazione, di interrelazione che altri generi non le consentivano. Senta, anzi le erano interdette addirittura, personaggi straordinari vengono fuori, Lady Montague, sì, lei era un'aristocratica, il marito era stato addirittura il primo console dell'impero britannico presso la porta di Costantinopoli, ma potremmo ricordare anche Lady Morgan, una donna che così è stata veramente accanto ai primi moti carbonari italiani. Lady Montague l'abbiamo ricordata da poco per un libro recente. Il suo libro si conclude con una parte che si intitola Itinerari di culto. Ecco, secondo lei, sì, quali sono gli itinerari che noi dovremmo riscoprire del nostro paese? Ma senta, io lì ci sono degli esempi, facciamo un esempio nord, centro, sud, ecco, così noi siamo, valicare le Alpi sulle vecchie strade, la vecchia via del Sempione, ecco, i vecchi percorsi, ecco, ed è sono strade affascinanti, certo, molto scomode se vogliamo, maltenute, però resuscitano un senso del viaggio particolare. Italia centrale. Che posso dire? Il periplo del Trasimeno. Tutti lo rasentano con la ferrovia o con l'autostrada, ma fare il periplo del Trasimeno è riscoprire un mito straordinario, il mito della battaglia di Annibale, i tanti viaggiatori che ci hanno effettivamente sostato, sognando, diciamo così, di questo grande evento della romanità. Il sud, che posso dire? Rifare la Via Appia. Ecco, costeggiarla oppure fermarsi laddove dove è avvenuta la battaglia di Cannes. Ecco, questi sono gli itinerari, però con un avvertimento, perché poi l'Italia è un po', come dire, conosciuta in ogni luogo, uno potrebbe dire, beh, sono cose note, ma queste cose, ma questi itinerari vanno fatti avendo in tasca o sotto mano comunque un viaggiatore che sappia darti quello che lui ha visto, per cui tu vedi con due occhi i tuoi effettivi, quelli di oggi, ma anche quel spaesamento sottile che ti dà la parola di quel viaggiatore che vi transitava 100 anni fa, 200 anni fa e così via. Grazie da Attilio Brilli anche per queste indicazioni di viaggio che ci potranno essere utili nei prossimi giorni di festa. Buona serata. Bene, arrivederla, grazie a lei. Un altro grande studioso, in questo caso uno storico dell'architettura, è Cesare De Seta, che pubblica con Rizzoli L'Italia nello specchio del Grand Tour, 480 pagine, 25 euro. Il Grand Tour, spiega l'autore, fu un viaggio di formazione della classe dirigente europea ed ebbe un particolare impatto che l'autore ci vuole sottolineare, cioè quello che i viaggiatori che venivano in Italia, alla fine si rendevano conto che la nostra fosse veramente una nazione in senso moderna. Il viaggio in Italia aveva una tradizione antica, era iniziata questa tradizione con scopi soprattutto devozionali, che però a partire dal Cinquecento diventano scopi di studio e di scoperta dell'eredità. Per esempio, proprio agli inizi del 1500, nel 1501, il grande intellettuale dell'epoca, Erasmo da Rotterdam, scriveva a un'amica: andare in Italia per ottenere il titolo di dottore, sciocchezze, l'una e l'altra cosa, ma dati gli usi dei tempi bisogna adattarcisi, come dire che insomma era una fatica inutile, però non si poteva sfuggire a questo dovere sociale di visitare il nostro paese. E allora qui nel libro vengono esaminate le varie comunità, gli inglesi, i francesi, i tedeschi, tra i quali ultimi c'è forse forse il più famoso dei viaggiatori che visitò l'Italia, cioè Goethe, e il quale in particolare consacrerà La fortuna del mezzogiorno. Quindi, più che sui luoghi, questo è un libro sui grandi personaggi, sulle testimonianze letterarie e pittoriche che essi ci hanno lasciato del viaggio in Italia. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso vi presento un libro che non è una strenna, ma parla di viaggi in Italia, ed è stato scritto da uno straniero che peraltro ormai si è italianizzato, e cioè Tim Parks, lo scrittore inglese che insegna all'Università Ulm di Milano. Il suo libro si intitola Coincidenze, è pubblicato da Bompiani, 340 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Giovanna Granata. Le coincidenze, come spiega il sottotitolo, non sono quelle fortuite, quelle del caso, ma sono le coincidenze ferroviarie. Perché, infatti, leggiamo in copertina, sui binari da Milano a Palermo. Tim Parks infatti pendola in treno tra Verona e Milano e ha intrapreso un viaggio in ferrovia nella penisola. E quindi il suo è una versione aggiornata, ma non troppo in certi casi, del Grand Tour. Un viaggio che per lo scrittore inglese diventa anche una metafora nel bene e nel male, infatti si scrive innegabilmente del modo italiano di fare le cose. Si parte quindi da un viaggio appunto Verona-Milano per un breve excursus nella realtà delle ferrovie italiane e soprattutto nelle avventure dei viaggiatori, a partire da quella di tentare di sottoscrivere un abbonamento a una coda alla stazione, che diventa anch'essa metafora dell'Italia. E poi troviamo tanti altri tragitti, soprattutto un reportage sulle condizioni delle ferrovie italiane, gestite per molti anni, scrive l'autore, con la plateale incompetenza che ha condotto l'Italia all'incresciosa situazione in cui versa al momento attuale, sprofondata com'è in una recessione che si protrae a oltranza. E si parla naturalmente anche di alta velocità, ma anche delle linee dimenticate del sud, dove ancora vigono delle situazioni assurde. Per esempio in Sicilia, ci spiega l'autore, la carta ferroviaria corrisponde ancora alla rete che era stata pensata per portare sale e zolfo dalle miniere delle montagne. Insomma, l'humor britannico non lesina critiche spesso implacabili e sempre affettuose, con una dedica iniziale e finale che faccio mio, perché il libro si conclude con l'augurio di ogni bene a qualunque passeggero con un libro in mano, a qualunque uomo o donna segua le righe sulla pagina, come le ruote seguono i binari sul paesaggio, correndo per il mondo senza farne veramente parte. E a questo punto, il confettino. Concludiamo questo capitolo sui viaggi con una nuova collana di Franco Cosimo Panini, di cui è protagonista La Pimpa, che aiuta i bambini a visitare varie città, Milano, Firenze, Venezia. C'è la versione anche in inglese per ciascuna di queste città, tradotte da Line Mint. Queste sono vere e proprie guide alle città per farle scoprire ai ragazzi attraverso la storia, l'arte, ricorrendo alle illustrazioni, agli indovinelli e ai giochi. Le illustrazioni sono di Altan, i testi di Alberto Galotta, hanno ciascuno 32 pagine e costano 6,50 euro. Riprendiamo con le nostre strenne. Vi segnalo un sontuoso libro di 24 ore cultura, che è la società del gruppo al quale appartiene questa radio, che si intitola I viaggi di Casanova. Questo libro veramente ricco, di grandissimo formato, costa 79 euro, nel quale troviamo appunto i passaggi in varie città d'Europa di Giacomo Casanova, che non fu soltanto un appassionato amatore, come ricorderete, ma un protagonista autentico della vita culturale non soltanto del suo tempo. Casanova fu un infaticabile viaggiatore, e qui troviamo appunto le tappe delle sue peregrinazioni, ciascuna illustrata con immagini e foto d'epoca, e qualche riga dell'autore tratta su quei luoghi, naturalmente qualche riga tratta dalla storia della mia vita. Come ci spiega Marco Carmelo nell'introduzione, il vagabondaggio di Casanova rispondeva a una domanda tormentata e continua di libertà. Non avendo mai avuto una meta fissa, il solo sistema al quale io potei ricorrere, scrive lo stesso Casanova, fu solo quello di lasciarmi andare dove mi spingeva il vento. Abbiamo parlato di foto antiche, e allora vi segnalo un libro sulla foto contemporanea che troviamo nell'ultimo volume, il quarto, della collana La Fotografia, una collana che è stata curata da Walter Guadagnini e che presenta lo sviluppo di questo mezzo trasformatosi poi in manifestazione artistica. Il libro è pubblicato da Schirà e costa 60 euro. Qui in questo libro, in questo volume, troviamo in questo volume viene presentato il periodo tra il 1981 e il 2013, un periodo fondamentale perché proprio parte dall'avvento della prima fotocamera digitale, dei primi ritocchi anche clamorosi fotografici. Le più recenti innovazioni, dice Guadagnini, ormai ci sembrano perfino banali, ma in realtà sono innovazioni recentissime e fondamentali perché hanno radicalmente modificato il nostro rapporto con l'immagine. E nel volume troviamo vari saggi sui grandi artisti e sulle tendenze degli ultimi 30 anni. Tornando alle strenne che hanno a che fare con i viaggi ma anche con le foto, vi segnalo un libro che ha a che fare con un grande intellettuale del Novecento, Fosco Maraini, che firma assieme alla moglie, Topazia Aliata, il libro Love Holidays, quaderni d'amore e di viaggi, Rizzoli, 534 pagine, 39 euro. Maraini è scomparso qualche anno fa, Topazia Aliata ha più di 100 anni e ricorda qui le tappe del suo matrimonio col marito. Questa infatti è la storia dei viaggi giovanili di Fosco e Topazia, introdotti qui dalla figlia Dacia Maraini, che ci parla dello stile del loro esplosivo e inquieto amore, molta libertà, molta trasparenza, sincerità a ogni costo, solidarietà, generosità, allegria, così scrive Dacia Maraini. Già prima di sposarsi, lo faranno nel 1935, i due cominciarono a viaggiare e a scalare montagne. Subito dopo il matrimonio si trasferiranno in Giappone. Qui troviamo i diari relativi al periodo 34-35, fatti di immagini, di appunti, di fogli sparsi, di disegni, di mappe, di biglietti, di fatture, di ricevute, che formano degli album che avevano montato, per così dire, i due coniugi, come ci spiega l'altro figlio, Tony. E qui troviamo anche la riproduzione originale degli album e dei collage. Un'altra moglie di intellettuale e giornalista famoso, Igor Mann, è Maria Rosa Carreri, questa scomparsa l'anno scorso, di cui esce un'intervista con Donata Carelli che si intitola Un barattolo pieno di lucciole. Storia di Igor Mann e Maria Rosa Carreri, pubblicato da Guida, 158 pagine, 12 euro. Questa è un'altra storia di coppia che, come dice Andrea Riccardi nella prefazione, incrocia la grande storia, gli eventi che hanno scosso il Novecento e tanti personaggi che hanno segnato quel secolo. Il titolo rievoca un delicato episodio degli inizi della lunga vita insieme dei due, uniti da un rocambolesco matrimonio in Messico. E qui troviamo la storia di questa unione, della carriera di uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento, avviata con la sorprendente convocazione del mitico direttore della stampa Giulio De Benedetti a Igor Mann, appunto, per seguire le vicende successive all'assassinio di John Kennedy nel 1963. Un libro suggestivo è quello curato dallo scrittore Shaun Usher, che si intitola L'arte delle lettere, 125 corrispondenze indimenticabili, tradotto da Silvia Rota Sperti per Feltrinelli, 368 pagine, 35 euro. Anche qui un libro di grande formato e di particolare cura, per esempio c'è una particolare spiegazione sui tipi di caratteri tipografici che sono stati utilizzati, un libro nel quale vengono presentate appunto 125 lettere di famosi personaggi. Di ciascuna lettera abbiamo una breve presentazione, la foto dell'originale quando c'è e la trascrizione. Si parte con la regina Elisabetta, che nel 1960 scrive al presidente americano Eisenhower per mandargli la ricetta degli scones, un dolce tipico britannico. Poi ne troviamo uno di Jack lo Squartatore, che informa di aver divorato con grande piacere il rene fritto di una sua vittima. Oppure c'è Maria Stuarda, che nel 1587 annuncia al fratello la prossima esecuzione. Abbiamo una serie di madri che supplicano nel 1870 un ospizio di New York, che ancora esiste, di tenere i propri bambini. E poi troviamo Galileo, Leonardo, Emily Dickinson, Dostoevsky, Kennedy, un dignitario egizio del 1340 a.C. e tanti altri.